Siamo con uno studente del Virgilio, che è ancora occupato, se ci racconti un po' com'è andata per voi la giornata di ieri, cosa si state apprestando a fare la giornata di oggi, oppure insomma se hai valutazioni insomma anche per i prossimi giorni a venire. Sì, allora, vabbè, come già hai detto tu, la nostra occupazione sta continuando e oggi ormai l'ottavo giorno, no, il nono giorno, sta continuando sempre partecipata e ieri, forte partecipazione che c'era a scuola, siamo riusciti a mantenere sia un presidio dentro sia a partecipare alla manifestazione che poi si sarebbe incontrata a Montecitorio e si è poi mossa. Ieri noi abbiamo fatto prima una parte di corteo non autorizzato nostro, siamo avvicinati a via del Plebiscito, dove siamo stati bloccati, e dove poi ci siamo riuniti al corteo universitario per arrivare a Montecitorio e poi al Senato. La partecipazione nostra è stata abbastanza compatta, gli studenti medi comunque in generale c'erano, erano parecchi, abbiamo fatto, cioè, anche gli universitari siamo mossi ieri e poi siamo rimasti finché poi non si è sciolto il corteo per ritornare all'università. A quel punto noi abbiamo raggiunto di nuovo le nostre scuole e abbiamo subito mandato solidarietà per i compagni arrestati e alle 27 denunce ancora non sapremo su chi cadranno, però è comunque un ulteriore atto della repressione vigente. E invece oggi? Oggi noi adesso ci stiamo riunendo in assemblea di gestione dell'occupazione e a breve usciremo da scuola per raggiungere di nuovo Montecitorio, dove c'è uno degli appuntamenti di oggi. Siamo vicini a quella piazza, quindi la raggiungeremo anche abbastanza in fretta ci muoveremo da lì, poi vedremo come andrà la manifestazione, comunque anche oggi staremo lì a fianco all'università. Invece per quanto riguarda in generale, diciamo, il movimento nelle scuole quest'anno, ormai insomma siamo a dicembre, che valutazioni possono fare? Molte scuole occupate Sì, quest'anno, peraltro nonostante anche magari. scuole che negli anni precedenti non si erano mosse particolarmente, cioè dopo l'onda il loro movimento è stato più o meno basso e anche quest'anno invece sono riusciti a rimuoversi. Le manifestazioni sono nate sempre abbastanza spontanee e partecipate e credo che come valutazione a guardare avanti si possa continuare un movimento abbastanza forte sui toni che ci sono già stati adesso e magari che si possano alzare un po' appunto all'inizio di dicembre, dopo le occupazioni delle scuole, comunque. Come già detto, sono state parecchie. Ma anche in varia intensa intensità e anche lunghezza alcune. Voi ormai quanti giorni è che siete in occupazione? Insomma, Questo è il nono. E le altre scuole comunque meno di 3 giorni non hanno era fatto. parecchio, non si vedeva a Roma, appunto, occupazione durare una settimana, No, 10 giorni. infatti. L'ultimo anno era sotto l'onda. Quindi che quest'anno si è riuscito a fare qualcosa del genere, che comunque le azioni anche di piazza siano state molto partecipate, incisive, cioè ieri siamo entrati nella porta del Senato è particolarmente buono il movimento. Ok, io ti ringrazio, ci andiamo a risentire poi più tardi nel corso della mattinata, magari fateci uno squillo quando arrivate.